Buongiorno. Prima di tutto facciamo l'appello. Gigi D'Agostino presente. Ok, ci siamo tutti. Bye. faccia di chi ci vuole male. Antidepresso. Rimani connesso. Piacere, non giochiamo sul comodino, proseguiamo sto cammino.

faccia neanche ai bambini. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani. Battiamole forte. Per piacere, non giochiamo sul comodino. Proseguiamo sto cammino. Get down. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Oh, ciao G, da paura, ho fatto una cosa, la sentita? Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Ecco qua, va. chiesto a meno di Gigi D'Agostino. Chiesto a meno di Gigi D'Agostino. D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Momento è tremendo. Piacere, prestiamo attenzione perché non siamo allo snocciolatoio pubblico, eh? Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Sì, vabbè. Concentrazione. D'Agostino. Questo cammino è per chi non si vuole abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce, non

Di chi ci vuole male. Gigi Tex M. Gigi Tex M. Gigi Tex M. Gigi Tex Gigi Tex M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stai a capire, frate? We'll be right back.